Hola, hola, hola, hola, hola, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, prova. Hola, hola, hola, hola, 1, 3, 4, 5, 6, prova. Hola, hola, hola, hola, hola, prova. Yeah. deglutire, dimagrire. Buongiorno, a me. Stesso che? Sì, sono Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ti dà della fortuna con questa gente qua quando va a fare tutte le cose. No, io, grazie a Dio, sono andato in Gran Umberto, tutti quanti, tutti bravi. Sinceramente sono tutti bravi, specialmente abbastanza puliti. Cosa vuoi che ti dica? Andrò lì. Ma quando io ero altri cose, ma ne cazzo. Ma si dà tutti. Ah no, vai lì, Gian Umberto, cosa è andata? La tirocia non ci sta andando più nessuno, non le prendere nessuno di lì. Sempre arrabbiato, ecco. Ah, macchia, per muoversi, allora vanno lì. Quella mazzottina c'era pure. Quella non capisce un cazzo, quella lì proprio, scusate la frase. Chi sa riccia si dice? Ehi, quella lì, quella proprio non capisce un cazzo. Un giorno ce la sono mandata a fanculo, ce la sono mandata. E infatti andrò via Umberto, non tanto più in chi va io l'apri chi su via Umberto. Quando arriva Umberto mi si è abbagliato dalle 7:30, dalle 7:30 ne stanno a piedi via. E adesso la prossima volta vado in via Umberto, non è possibile, cazzo, ma ne va a beffa. Mi è entrato Pomponio. Ah, quel magone Pomponio c'è. E allora, quel magone c'è. Ancora vivo, eh. E si è affavitato, vuol dire che arritirava. Ah, non parli adesso, Pomponio. Ah, ma non fa vita. Sta ridendo sotto i baffi, puzzinoso. Ma sei già ridito o cosa? Ah, allora già parli già. E certo, cazzo, ma se parli cazzo veloce, non ti capisco, già lo sai, no? Come non mi capisci? Se parli veloce, non ti capisco niente, la verità. Ah, boh. Pelle Tegera Terrani, lui oggi a Torino. Manuel, fammi da Rudua a vedere se ti comprendi, a me dici non mi comprendi. A capire già ti capisco. Io ma non la verità non lo sento, quindi non so se sei da solo oppure no. Non so cosa dirti. Abbassa un po' la televisione, Natali. Per quello che non ti capisci. Adesso mi capisci? Adesso non ti sente. Cazzo, buono so che sei diventato, va. Io ti capisco a te, ma lui no. Ah, non mi capisci a me. Bubu. Attenti, ma sei tutto cosa a un certo punto. Io capisco ciò che dici tu, ma lui no. Il discorso è quello, hai capito? È troppo basso. Se vuoi parlare di cosa, di segnale e audio, il discorso è questo. Ah, te non comprendi, Manuemi. Dici che sei troppo basso. Ma c'è pure più alto di me. E io, mia madre mi ha fatto basso, è piccolino, cosa devo farci io? Ora di un foglio di bambino. Ah, è poco, due voli da... di biglietti da sento, luna. Sì, no, così sei troppo basso. Ecco, vedi che se vuoi parlare con me, basta che vada in PNR, tanto ormai c'è le... A un certo punto, può che parlare tranquillamente, hai capito? Se piglia il portatile, c'erano altre cose, le cose carcerarie. Quindi, se prende un portatile di PNR, parla su canale 7, quello che è, e parliamo tutti, non c'è problema, tanto è libero. Ma io non ci arrivo da te col PMR. Ma lui sì però. Ormai tutti quanti siamo il PMR, quindi a un certo punto, quello che è PMR, canale 7. Non ci arrivo da te io col PMR, Antonio, non mi senti? Io ti sento, vedrai, non ti preoccupare. Il problema è che c'è un'antenna che è messa male, la verità, perché se no ti sento, fregatene, a se vuoi attivare il sacco sul balzetto, ti sembra l'antenna e ti faccio vedere che ti sento. Ma io non ne ho antenna, c'ho l'antennino suo e boh. Appunto per quello, bravo. E boh, non lo so come fai a sentirmi se c'ho l'antennino suo e basta. La direttiva già lo sai. Ma fui Zanca, Manuele. Ma Manuele affittendimi. Emanuele. Come te? Aspetta, eh. Ora, ti sei su? Ora, ti sei su? Le cose sono cambiate. Beh, Antonello. Chi è? Lui? Ora. Cosa ti fa male? La canna. Questa cosa vuol dire pigliare roba grossa. Lo so, guarda. A un certo punto, cosa vuoi ti dica io? Cosa vuoi ti posso dire? Boh. Oh signore. Oh signore. Cosa vuol dire andare con i trans? Cosa ti fa? Allora, prima va con i trans e poi gli fa male la canna. Non ho capito, dimmi. Manuela ha detto che vai con i trans tu, per quello che ti fa male la canna. No, ho pensato gli elettrodi, la verità. Più una specie di aggeggio per registrare, quindi a un certo punto cosa devo fare? Non posso neanche guardare, lo sai. Cazzo, rubinati siamo. Hai visto, C'ho gli elettrodi nel petto, hai capito? Mi sono parlato, perché se no Marco agganciavano, quindi figurati tu. C'ho gli elettrodi, a un certo punto, sono fregato. Cosa diranno i bucciafai gli elettrodi? Ma cosa te li hanno messi a fare questi elettrodi? Cosa c'hai perché? Fammi calabacciolo. Un be. Cosa c'hai? C'ho parecchia roba, hai capito? Sì, c'è giù di belli da sì tu. Problemi di cuore, hai capito? Sì, ho capito. Quindi, a un certo punto, cosa devo fare? Tutto per così. E beh, Emanuele, finito hai da affittare. No, non è solo affittare al forno. Faccio un po' crudo, lento, prosciutto. Ah. Quello che si è gelato. Per carità, c'ho la schiena affitta, ci credi. Da quando mi hanno operato, per carità, poi quando c'è... faccio movimenti strani con la pompa, adesso sono piantata con la pompa, la ripeta. Alla sera di loro. carità, su capricci io. A me da quando mi hanno messo questo scatto di placche, mamma mia, non ce la faccio più io. E poi quando vai sempre un ronfio ti vengono i dolori, compreso. Domani che fare andare a fisioterapia, ma il cazzo non regala tempo di andare a fisioterapia. Siamo sempre servizio. E infatti, con chi sul travaglio che sei vendi? Io... è proprio una stava dicendo. Mettiti il PMR, è proprio una tariffa. Vai, come faccio a mettermi che antenne, non ho antenne, non ci posso salire sul tetto, no? ho messo solo l'antenna di qua e basta, e lì da subito usare il radio, quindi non ho preso un bus, più alzato. Ah, non viene nessuno, cosa lascia perdere, non c'è più nessuno, sia in PMR, sia in 27, non ne vale più la pena. E infatti, quando morì ci ha tirato va a fanguarla. Ormai sono tutti digitali, ormai sono tutti col computer, telefonini, se hai la validità va vedi con tutto il mondo, ti collega a internet, E infatti, questa roba qui sta andando e morendo da tutte le parti. Ormai è passata, prima era mobile, prima sì, me lo ricordo, cazzo sempre già bene, vendi, cambiano antenne, cambiano questo, vendi di pollo, ma vedi che non c'è più nessuno. Non c'è, ma non solo qua, ma anche dalle zone dove ero io, a Milano, lo stesso, c'è un amico mio, mi fa, ma non è qua, non c'è più nessuno. Infatti anche lui, non ne vale più la pena spendere solo per che cose, devo fare due chiacchiere e 5 minuti. Sì, infatti. Non mi vale più la pena. Prima c'erano quei tipi, prima c'erano quelli sì. Erano quelli sì, adesso no. Cazzo intendi solo, QRM e bu, cosa intendi? Più che QRM non intendi. Sì, ma la colpa è la nostra. Capitola, e la guipa era nostra, a chi uno non vende, l'altro non vende, alla fine uno si rompe le scatole, spegne tutto e non accende più. Ma la gente non entra, perché adesso ci sono queste robe tecnologiche, adesso sono quei computer, o sono quei telefoni, ormai prima sì, c'erano lo stesso, la roba tecnologica, ma vai ancora di più. Adesso che cazzo ve lo fa fare stare lì a sbattersi le palle, a mettere l'antenna, a fare quella, a fare quell'altro, cazzo la sera un computer, vuoi parlare con qualcuno, ti colleghi, internet è fallito, senza camera, tanto un capo, un antenne stazionale e balle varie. Ma capì? Sì, ho capito. Avanti Antone. Guarda se in pratica facciamo da 27 in PMR, quindi a un certo punto siamo a posto. Chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare ce la piglia in culo a un certo punto, quindi hai capito? Ho ordinato quello che ho ordinato, non avevo niente a nessuno da mettere, ma comunque sia, d'ora in poi, in pratica si trasmette la PMR, sono le 7, già lo sai anche tu, bello, il 27, quindi siamo a posto. Allora leggete, dimmi, cosa c'è? Sono tutto gonfio. Anch'io, la verità. Come è stato? Vabbè, va tutto bene, la verità, senza Dio. Influenzato, sì. Influenzato, sì. Ah, è quello che è andato a classe. Sì, sì, influenzato. Ciao, Manuè. Sì, sì, quello sì. La verità è che è influenzato, Anche io. adesso mi bevo un bicchiere di vino, lo scaldo. E beh, 5. E beh, Lu, se sta a posto, sì. Sì che andava a macchina, ho trovato una 600, un ragazzo. Ne vuole... sembra nuovo, fa 155.000 km mi pare, cioè gli ha fatto tutto, però boh, la devo far vedere al meccanico, aria condizionata, idroguida, provvisoria, mia manuale, mi serve per andare a fare la spesa, a fare commissioni e per andare al lavoro. Ma non sarebbe la durata io, sei tu. Ma cosa, cazzo, qui si consuma un po' di olio brucia. Ecco, la Toyota, la mia non è consuma uso. Dai gussi. Cosa stai dicendo? E beh, questa 600 cosa c'ha? Te la sta dando 4. Aspetta, lo dico. Avanti, Natalia. Io via. Si consuma uso la Toyota, vuol dire che pareva ci andati. Non ce ne mette ogni 8.000 km un chilo. Sì, come facevo con l'appunto. Sì, vuol dire c'ha le facce andate. C'ha il motore andato, ormai è vecchio. A me così mi ho crepato una R4 perché mi si è rotta una fascia e ha fuso tutto. Ma nella mia non mi pare neanche un goccio d'olio. Ma neanche nel motore c'è sporco di olio, Che vuol dire che è buono il motore, Manuel? Se il motore è vecchio, come se chissà chi va più io, puoi rischiare anche di fondere, perché a me di quanto era fina una fascia, si era rotta e mi ha immaginato tutto. E ha già dovuto rifare un motore nuovo. E castigliato guido. Quando è vecchio così il motore, la impazzita la macchina, cazzo, non puoi stare sempre aggiungendo uso. Guarda, io ti dico, quando avevo l'appunto, per quello che me l'ho venduto, ogni bacio di ghi, devo muovere un chilo d'uso, pensa tu. E anche ormai il motore era consumato, Manuel. Consumato, via, lascia per quando l'ho preso con la macchina, non c'aveva neanche olio nel motore, pensa tu. Io intento a prendermi la panna, l'ultimo modello, ce ne sono tante, ce n'è una a 7.000 euro, pure lì a Nuoro, nuova, la soffredo. Ho chiesto una settimana per una macchina a noleggio, costa 250 euro. Un bel lavoro. Ho fatto il calcolo di un anno, 10.000 e passa euro, non la compare di nuova. Appunto, appunto, anche io quando prima di prendere la macchina stavo cercando, ma cazzo è caro. È un casino, vai, lascia lì. Lo so. Cazzola mia, dicanto uno la sua cultura attende 9 chilometri, batti lungone. E c'ha, allora è del 2001 la mia, 23 anni c'ha. E non ha chilometri, perché non la sto più usando. Quanti chilometri ha perché? Cosa? Quanti chilometri ha? 146.000 ne ha, ma la mia è diesel, dura 51.000 chilometri il suo motore, è nuovo nuovo, l'ha già fatto pure da poco, cazzo, è scintillante, la carrozzeria è messa male perché qua stando fuori me l'hanno tutta rovinata, tutta graffiata, tutta batta, in oramara, cazzo va via un graffio quando l'ha già rigata da campagna ai noghi, fino a colpi di macedo o di breda alla cappotta me l'hanno cutta. Sono dei bastardi in questa zona. Da prima la Russia ha fatto a punizia il rubosteggio che la sua componente. Almeno non avrebbe avuto quei danni alla carrozzeria. Purtroppo quando la lasci fuori così. Casino, i parcheggi mi erano grimata, cazzo, mi hanno girato la vernice da rubare a urti posteriore, deve essere che invece arrivare piano piano, boom, sarei via e ci cudiano la bala ultima vaffanquala. Qua me l'hanno fatta a beffa, tutta graffiata, colpi non ne hanno, sono racciaduri di parcheggio. Però anche mi hanno tirato qualche martellata alla cappotta dove c'è lo sportellone lì. Cazzo. Giocoteni sono una massa di bersagli, no? E uno o due specchietti mi hanno facciato, la ciappava in terra, cazzo, a fare i bigli, ma si ribigliavano. Sì, altro che mai. Cazzo. Una o due volte me l'hanno rotto lo specchietto della parte di guida. Meno male vendevano il vetro, no? Io pigliavo e ci rubiazzavo il d'ora. Di libro è passata la paura. Però uno o due me ne hanno rotto, bastardi. Finalmente per non rompermi li piegavo, no? Me ne scendevo la macchina e lo piegavo lo specchietto. A che se no, chissà quanti me ne avviano i fasciati. Adesso già sto posteggiando in un parcheggio ed è più tranquilla lì. Mi piace, me devo fare fuori questa bici elettrica. Comunque io gli facevo sempre la manutenzione alla macchina mia, sennò così non ti dura. Comunque domani è il funerale della moglie di Antonio, alle 3:30. Cosa, Lu? Domani è il funerale. Domani lo fanno, e come mai? Fare i conti per Salò. Non l'hanno già fatto. Domani, perché stavamo contando per vedere cosa è morta. Hanno detto, cugino Antonio, non ha formazione al cuore. Ehi, cavolo. Cos'è, è ammalata al cuore? Una malformazione al cuore, dice che ha detto. Cavolo. Ma non è che... Poverina. Non si è accorta. Ci aspettavo di tutto e di più. Che tocchi, però se siete più. Stavo rispetto, non c'è un mondo strano. È vero. Cano si freddo, un motivo beh. Pompo. Fai due. C'è Antonio. Ah? Antonio ora sta combinando, com'è? Non è fatto, sta qui. Ho capito, Manuel. Marmaglia, io giro, invece di bugata edda, che abbiamo un figlio di minore pure. Sai, chi fa la vita di merda non muore, chi fa la vita sana alla fine, no? Vabbè, tutto. Non puoi toccare tutti, Ti chiama, quando devi chiamare ti chiama, tranquillo. Ma allora c'era qualche problema prima, fare strada a me. Vabbè, pure me la dite, sei coccato. Non si è pesato più. Ci credo. E io che ne faccio? Festeggiate, la rotti. E domani dovevi andare a travagliare, dovevi a Bacchistola. Avevo fatto stare io a questo posto di lavoro. E la fa via. Senti, già mente. Ha chiuso. Purtroppo. Ma te ne accucciate, va, usa voi. E ora il campione Gianluca. Chi è qui? Chiamai. Ma tu sei? Io. Ciao, buonasera. Come si va? Come va? Come poveri? Meglio un mezzo povero che è ricco malabando. Vabbè, almeno benestante. Insomma, faccia. Tutto ciò se ti va bene, ci sia la salute, vai. Qua la cosa più importante è lui. Non ancora lui. Eh? Non ancora c'hai. Ma Maria, arrivi troppo forte. Vabbè. Vediamo un po' la settimana entrata lì. Ho detto che arrivi troppo forte, abbassa. Vabbè. Non si abbassa, si abbassa le due, scatto, sono a cattolo, scatto, quattro volte. No, la radio, lo sento un po' vicino, mio male, è arrivato un po' forte. Che cosa vuoi ammazzare? Boh, aspetta, vedo un po'. Aspetta, abbassi il macchinario, ci ho messo. E adesso com'è? Prova. Una destra prova. Ah, un bel forte. Non è limpida, forse perché siamo troppo vicini, boh. Oh, boh. Stavo usando un microfono particolare, sto usando. Forse è il microfono. Ascolta, lui, niente sai del fatto di Antonio Bombolo. Il funerale domani alle 3:30. Quando? Domani alle 3:30, latte dolce, la chiesa grande. Alle 3:30, domani sera, ho capito. E perché non sai, no, se non ho sentito nessuno e volevo saperlo. Dove? Un attimino, che non ci voleva, poverino, dai. Dio Mari, purtroppo. Un problema è... un casino. Ora mi ha detto fare squalo, me l'ha detto, io non so proprio niente. Anzi, è entrato l'altra sera, però non ho capito perché è troppo forte, non si riusciva a capire troppo, ho detto, pensavo che si fosse sentito male lui, capito? E invece non so solo male, ci sono così e così e così. Allora ho telefonato e già mi ha detto tutto, però non sapevo quando era funerale, capito? Tutto lì. Benissimo il suo veramente, vai. Ma forse non sappiamo niente da certe volte, io il giornale non lo penso, ma non ne hanno messo il giornale. No. Già è costoso così. Il giornale costa, Ma non faccio veramente, vabbè, domani ci andremo, grazie lui, me l'hai detto, infatti non sapevo a chi dirlo, grazie, me l'hai detto, dice che domani ci vediamo là, ok lui. Comunque, non sta lavorando, no? Sì, ho fatto 15 giorni di campagna elettorale. Allora, e beh, qualche cosa hai fatto, si va anche lui. Mi funziona ben già. Sì, qualche soldino, ma niente di particolare, Ma così, qualcosina. Adesso sto cercando una macchina, Gio Marini. Una macchinetta da comprare. Però prima la voglio far vedere al meccanico. Voglio prendere altre fregature. Quelle cose, bisogna stare attenti, capito? Bisogna stare attenti, certe volte si trovano delle cazzate, grazie, non finiscono mai, per cui bisogna stare attenti. Io a conoscere la persona e come la usavano anche, capito? Ma se io dovessi sentirne già te lo dico lui. La macchina, diciamo che deve avere le sue, come si dice, e deve essere messa bene, il motore è molto importante, anche la carrozzeria, anche l'interno della macchina, perché quella che avevo preso io faceva schifo, mio marito, schifo, cosa vuol dire schifo, manco gli zingari. Posso immaginare, per carezza, perché certe volte prendiamo le fregature, non abbiamo l'idea, ragazzi. E bisogna stare certo, quello che conta sia il motore che quello che conta, capito? La carrozzeria la si può aggiustare facilmente, però il motore è molto importante, capito? E per cui bisogna stare attenti, cosa prima di prenderla bisogna farla controllare, perché io se voglio avere una macchina deve essere perfetta, se no non la prenderei, e così bisogna fare lui, certo. Infatti, un peccato con la macchina c'era di tue, cazzo, se non so, è stato o buono, sarebbe stato l'ideale, però, è stato la chiusa, come fai a saperlo? Giovanni, troppi problemi, troppi. Va bene, lui, ci sentiamo, dai, devo chiudere. Grazie, una chiacchierata, anche se mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere, ho sentito, dai. Saluto di casa, lui. Adagio, Mari. Vai, staccato. Poi passo dopo al 23, a dopo, ciao Giovanni. Ok, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Chi è? Chi vuoi che sia? Chi sei? No, c'ho l'audio alto, chi sei? Oh, non conosci più mamma mia, cara. Conosci più Antonio. Ah, alto, c'avevo l'audio del telefono alto. Devo accedere così per distrarre un po'. Buonasera a tutti. Ok, te lo stavo comunicando a Gio Maria per domani, dai. Sì, sì, ho sentito, ho sentito. Era un po' giù a questo accento. Un po' bene. Mi chiamo Noele. Sparite, Natalino, sono spariti. Salutalo. Salutalo. Il microfono stai usando, tu? Andami più 4. Tanto c'è basso, o troppo alto, troppo basso. Vabbè, se va bene adesso. No, no, va bene, va bene. Tu bene che stai ascoltando, tu? Sei a casa. Come la segnava? Non la scala. Sul 3 del più 30, sì. Sì, andava. No, no, arrivi benissimo. Sta già al 3 che sì. No, la 48 l'ho utilizzato. Ah, va bene. Andava. Oh, yeah. Io stavo contattando questo qua per la macchina, ma se c'è, è abbastanza nuova, ne vuole 1750, dice che ha fatto tutto, sta a 175.000 km. Mi raccomando che sia ottima. Oh, Mario.